senso, oh. Me lo chiedo ogni tanto, oh. Nessuna certezza ha, ah. Forse è meglio cambiarlo, no. Non voglio fare l'università, per dire agli altri faccio l'università. Finire fuori corso, laurearmi dopo 10 anni. Dico no al matrimonio con mamma e papà. Parlo tante lingue come un poliglotta. Sola matematica come fosse mia sorella. Un 3 lauree, la vita è una sola. Sto solo facendo esperienza al McDonald's. Se voglio qualcosa mi alzo e la prendo. Non ascolto la gente che parla. Con 300 rimpianti e la sera che guarda il grande fratello. Mamma, non ridermi in faccia mai. Voglio fare il cantante, vestirti firmata. Comprarti una casa più grande che abbia il wifi. Balla, ti compro anche la pista come un DJ. Puoi salire in cima alla vetta e ti mostro il mondo dall'alto. Ho un sogno che fa rima con ridere. Nessuno può dirti non ridere. Io sono un cantante, fa ridere. E allora ridiamo insieme. Guarda il cielo, il tuo futuro non avrà pretese. L'italiano che cerca lavoro prega San Gennaro perché è giapponese. Sono giapponese. A scuola sono intelligente, manca applicazione. Però il mio tema d'italiano è sempre quello migliore. Cosa farete dopo? Come se lo chiedesse un condannato prima dell'esecuzione. Io vivo sul serio, senza paure. E sogno un futuro migliore di questo. Perché al contrario sarebbe avere già perso tutto. Mamma, non ridermi in faccia mai. Voglio fare il cantante, vestirti firmata. Comprarti una casa più grande che abbia il wifi. Balla, ti compro anche la pista come un DJ. Puoi salire in cima alla vetta e ti mostro il mondo dall'alto. Ho un sogno che fa rima con ridere. Nessuno può dirti non ridere. Io sono un cantante, fa ridere. E allora ridiamo insieme. Noi sogniamo di notte, guardiamo le stelle, temiamo la sorte. Sogno di andare alle cene in famiglia e alle domande di tutti i parenti. Cosa farai dopo il liceo? Sono un cantante e tutti contenti. Mamma, non ridermi in faccia mai. Voglio fare il cantante, vestirti firmata. Comprarti una casa più grande che abbia il wifi. Balla, ti compro anche la pista come un DJ. Puoi salire in cima alla vetta e ti mostro il mondo dall'alto. Ho un sogno che fa rima con ridere. Nessuno può dirti non ridere. Io sono un cantante, fa ridere. E allora ridiamo insieme.